Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La mirtazapina funziona, ma è come se qualcuno portasse a zero l'amplificatore. Una bella linea di base piatta. Niente più dolore, ma neanche felicità. Niente pena, ma neanche desideri. Niente scelte o responsabilità. La prendi la sera e dentro mezz'ora dormi, che tu lo voglia oppure no. Mi chiamo Anna, vivo a Bologna, ho 45 anni. Se sia meglio per l'anima soffrire gli oltraggi della fortuna, i sassi e i dardi, oppure prendere l'armi contro questi guai e distruggerli. Morire, niente di più. E dirsi così con un sonno che noi mettiamo fine al crepacuore e alle mille ingiurie naturali che sono un retaggio della carne. Questa è la consunzione da invocare devotamente. Morire, dormire, forse sognare, forse. E l'incaglio sta qui. Che sogni sopravvengano dopo che ci si strappa dal tumulto della vita normale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durare tanto anch'essa. D'altra parte, chi vorrebbe sopportare i malanni, le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, eccetera, eccetera, l'arroganza dall'alto, poi cos'altro, la derisione degli indegni, bla bla bla, se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare spossato sotto il peso della vita, se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci, a confondere il volere e a farci indurire ai mali di oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano e perdono il nome d'azione. Amleto. Sì, sono le 16:08, sì, questa è Radio 24 e sì, questo pezzo era del primo depresso della storia, come me lo presentò uno dei primi registi con cui lavorai quando ancora facevo l'attore. E leggendo Amleto, leggendo questo pezzo qua, che non ho letto la prima riga, ma è l'essere o non essere, è come lui lo definì: ragazzi, questo è il primo depresso della storia. Diciamo, non era proprio un regista super lungimirante, con tutto il rispetto se mi sta ascoltando, al punto che non fa più il regista adesso, non so cosa fa. Forse fa l'agente immobiliare, credo. Forse allora non dovevo citare lui come esempio di lettura del teatro classico. Ma tant'è, questo pezzo qui dice una cosa semplice. Cioè dice, cosa faccio? La faccio finita oppure no? Sono super indeciso, non so cosa fare. Perché non la faccio finita? Perché non so cosa viene dopo. Quindi alla fine preferisco stare male come sto male adesso. Preferisco i mali di adesso e le sofferenze di adesso a quelli che non conosco. Oggi si parla di un argomento che non è per niente leggero, non è per niente leggero nemmeno per un lunedì, però devo dire che Anna, l'autrice della storia, è riuscita a farlo in maniera semplice, ma soprattutto lo ha fatto. Cioè, ha affrontato un argomento che è nelle vite di tutti noi, che di passaggio probabilmente, anche se in misure più o meno grandi e più o meno importanti, attraversa le vite di tutti noi, che è quella fase di buio che ogni tanto ci capita, no? Quello che ha un nome vero e proprio, che è depressione, per cui che di fatto è una patologia, è una malattia. Anna ci è entrata, ne è uscita e ha avuto voglia di raccontarlo. Ripeto, è una cosa che conosciamo talmente per sentito dire, perché qualcuno l'ha avuta, qualche familiare ci è passato, o perché banalmente si usa questo modo di dire. Ma cos'è? Sei depresso? Ma cosa c'hai? Sei depresso? C'ho un po' di depressione. Chiaramente non è quella cosa lì e non è la cosa di cui ci parla Anna. Però proprio perché è troppo utilizzata questa parola, proprio perché è troppo frequentato questo ambiente, spesso è difficile parlarne. E quindi Anna, secondo me, ci ha fatto, a me personalmente, un grande regalo, è quello di mettere nero su bianco questa cosa qua. Guarda, a un certo punto può capitare che stai male e può capitare che tu debba prendere dei farmaci e andare a parlare con una persona che ne sa un po' più di te e che ti aiuta. E alla fine, visto che questa è una roba, è una malattia, ne esci. 349-238-6666. Non dovete essere nella condizione di Anna per aver trovato un modo, un escamotage, per cercare di non deprimervi, di non intristirvi nell'arco della vostra giornata. Avrete un vostro metodo, avrete trovato un modo per farvi tornare un po' di buon umore. Vittorio scrive: guardo Totò. Karen scrive: cucino dolci, vado a correre. Emanuele: sogno, scrive Federico. Matteo. Ascolto Toto Cambia di Mercedes Sosa. 349-238-6666. Elisa, mangio. Nicoletta, sto con le mie bambine. Milena, guardo e ascolto il mare, la mia più grande terapia. Alla fine, come facciamo prima con Tiziano, prima di andare in onda, abbiamo visto, per non deprimersi, si fanno più o meno quattro cose: sport, natura, arte, cioè musica, film, e cibo. 349-238-6666, il vostro modo per, usiamolo nella maniera più, nell'accezione più blanda al termine, ok? Il vostro modo per non deprimervi, 349-238-6666. Questa qui è la storia di Anna. Un farmaco per il trattamento della depressione, uno dei più blandi. Partiamo da qui. Sono una depressa, o meglio, lo sono stata. Malattia molto attuale e diffusa. Non sono un tipo originale. Quando lo psichiatra mi ha ricevuto la prima volta, mi ha prescritto un farmaco a base di mirtazapina. Questa molecola contrasta gli effetti dell'aumento di serotonina, un neurotrasmettitore che svolge un ruolo importante nella regolazione dell'umore. Anche il cervello, o non lo so, vogliamo chiamarlo anima, anche il cervello è un organo come gli altri e se si ammala sappiamo come intervenire a livello farmacologico. Una specie di rene o di fegato. Non so gli altri perché ogni depresso è perso nell'illusione di essere l'unico a soffrire, ma essere depresso e cercare di vivere è come camminare senza istinto. Provate a farlo, provate a dover compiere consapevolmente ogni movimento che compone un passo e non camminerete più. La mirtazapina funziona, almeno con me ha funzionato, senza non so se ce l'avrei fatta. Anche se mi piace pensare che ho iniziato a guarire davvero solo quando ho capito dove non volevo arrivare. Della depressione in generale, ovviamente ho parlato con tutte le persone care, forse anche troppo con qualcuno che probabilmente ho stancato con le mie ossessioni, però anche solo parlarne è già un sintomo di guarigione. Nei momenti peggiori non riesci a parlare con nessuno. La mirtazapina funziona, ma è come se qualcuno portasse a zero l'amplificatore. Una bella linea di base piatta. Niente più dolore, ma neanche felicità. Niente pena, ma niente desideri. Niente scelte o responsabilità. La prendi la sera e dentro mezz'ora dormi. Che tu lo voglia oppure no. Al mattino non è esattamente svegliarsi. Ti ritrovi dentro una vasca di melassa e ci vuole tempo a tirarsi fuori e scuotersi di dosso tutta quella sensazione appiccicosa. La fame diventa qualcosa di un po' più intenso del solito e ingrassi. Lo chiamano effetto antianoressizzante. Ma esci dai loop ossessivi e così ti resta quel po' di serenità per decidere se vuoi stare meglio oppure no. Dalla depressione mi hanno tirata fuori l'analisi e il desiderio di tornare a vivere, ma anche la mirtazapina. Solo la mirtazapina non sarebbe bastata, ma forse neanche solo l'analisi. Il desiderio di vivere all'inizio chiaramente non era un dato del problema. Non è proprio una paura, diciamo che so che può sempre tornare, una volta che hai capito che c'è non sei mai sicuro che non torni più, però almeno impari un po' a difenderti e sai, è già qualcosa con cui hai interagito e quindi non è più qualcosa di estraneo, per cui in ogni caso sai che l'affronteresti diversamente. È chiaro che faccio tutto il possibile perché non torni, richiede alle volte uno sforzo cosciente, però fino adesso sono soddisfatta dei risultati. Un giorno, ben dopo aver smesso coi farmaci, ho sentito che c'era di nuovo qualcosa che non vedevo l'ora di. E vivere è ridiventato qualcosa che si può anche fare in modo spontaneo, senza provare la fatica di ogni gesto. E ho ricominciato a rendermi conto che c'era anche altro, oltre a me. Una delle cose più noiose della depressione era questo continuo sguardo schifato rivolto all'interno. Sono una paziente a rischio recidiva, ma d'altra parte chi può dire cosa ci aspetta? Intanto mi prendo cura di me. Ho sempre pensato che non fosse giusto trattare gli animali come fossero esseri umani. Forse più che altro perché non possiamo parlarci. Da quando però ho scoperto che anche loro possono essere depressi, ho quasi cambiato idea. Le emozioni come la gioia e la tristezza me li rendono più vicini. E allora ho deciso che se un animale è triste o malinconico, bisogna occuparsene in qualche modo. Ho letto che ci sono certi pappagalli che vengono curati col Prozac, perché sono sotto stress a causa della solitudine e della mancanza di sollecitazioni. Però mi sa che per loro la migliore cura sarebbe lasciarli nella giungla, forse, se arrivano dalla giungla invece che in gabbia. Quindi, che cani o gatti siano depressi perché hanno padroni antipatici o un guinzaglio al collo non mi sorprende, e sinceramente non vedo soluzione, e spero che il mio cane non mi stia ascoltando. Mi interessa però di più il fatto che succeda anche in natura, cioè che anche animali liberi e nel loro ambiente naturale, senza che ci sia stato un qualche trauma, possano perdere interesse verso le attività piacevoli. Perché è questo l'unico modo che abbiamo per sapere se un animale è depresso, se diventa pigro e senza energie. Siccome gli animali non comunicano perfettamente con noi, non possiamo sapere se provano senso di colpa o se hanno pensieri di morte, che sono i principali sintomi della depressione umana. Sono state trovate scimmie che perdono interesse per il cibo o per gli stimoli sessuali, ad esempio, che stanno meno con gli altri animali del gruppo e che fanno fatica a dormire. Ecco, e quella è chiamata depressione. Ci sono anche molti studi su animali in cattività, però servono a poco, perché tutti sarebbero depressi, no, se li mettessi in gabbia. E allora ho scoperto la storia di Sean Ellis. Sean Ellis è quel tizio che ha deciso di diventare parte di un branco di lupi. Di farlo davvero. Lui amava i lupi fin da bambino e dall'Inghilterra si è trasferito nell'Idaho, dove ha trovato un gruppo di studiosi che lavoravano su lupi in libertà. E poi ha deciso di provare a diventare un lupo, a diventare uno del branco. Quindi ha cominciato a dormire nella tana con loro, dove c'erano anche i cuccioli. Ha vissuto con loro giorno e notte, e loro alla fine l'hanno accettato. Ha mangiato carne cruda, bacche, non si è mai ammalato. Ha sempre indossato la stessa tuta, per poter essere riconosciuto con l'olfatto, e solo ogni tanto ha passato delle notti nel suo camper. Ha scoperto cose che con le fotografie e i video non si potevano capire, ovviamente. E poi ha visto uno dei cuccioli, un giorno, diventare triste. Era quello a cui aveva dato il nome di Nero. Non gli aveva mai parlato, perché Sean con i lupi non ci ha mai parlato, non ha mai aperto bocca, se non per ululare o fare dei versi simili ai loro, improvvisando un codice, lui dice, senza sapere bene che cosa stesse dicendo. Ecco, quel cucciolo di lupo, Nero, ha smesso di mangiare e ha cominciato ad allontanarsi dai fratelli. Sulle prime Sean pensava che fosse malato e quindi un giorno lo ha addormentato e lo ha portato a fare degli esami veterinari. Un check-up completo, che non ha dato nessun esito. Cioè, fisicamente Nero stava benissimo. Da lì l'ipotesi che forse, per qualche motivo sconosciuto, fosse depresso, perché dimagriva e perdeva peso. Se non fosse stato in cima alla catena alimentare, sarebbe stato vittima di qualche predatore. Una specie di selezione naturale. Purtroppo questa storia non ha un lieto fine, perché di cosa pensino gli animali non si sa quasi niente, proprio perché niente ci sanno raccontare. Sembra che vivano un eterno presente che forse li salva da mille pensieri, ma gli toglie la possibilità di affrontare problemi che non capiscono nemmeno. I fratelli in sostanza andavano ogni tanto da lui, dal piccolo cucciolo, da Nero, ma siccome non rispondeva ai loro richiami e non faceva altro che stare in un angolo, hanno smesso di andarci. Sean ha provato a dargli del Prozac, come si fa coi pappagalli, ma non c'è stato alcun effetto. Nero è diventato sempre più debole e non è riuscito a passare l'inverno. Gli studi sulla depressione umana passano anche da esperienze come quella di Sean. Soprattutto per quelli che sperano che si tratti semplicemente di una questione fisiologica, di un banale problema chimico, e che possa bastare una pillolina a guarire tutti i mali. I'm gonna put my pink dress on and do my hair up tight. I'm gonna put some eyeliner on. I'm gonna look real nice. I'm going down to the church on 4th and Vine. I'm gonna marry my love and we'll be happy for all time. Yeah, he's the sweetest man you could find, so gentle and so kind, and he's got those big brown eyes. Can't believe me, lucky is mine. I will. Per non deprimermi, oggi si racconta di giocare a scopone scientifico, scrive Luca, ascoltare Vasco, scrive Mauro, ascoltare Led Zeppelin, Giuliano, una camminata all'aria aperta, mi spupazzo mia figlia, scrive Laura, la preghiera, ballo il tango, Lele invece dice pulisco le mie armi e vado al poligono a sparare, 349-238-6666. Anna, nella sua storia invece, ci ha raccontato di un'altra cosa, ci ha raccontato di un analista e della mirtazapina. Pronto Anna? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, ti ringrazio. Senti, innanzitutto parliamo della mirtazapina, che ha un nome magnifico, è un nome leggerissimo, sembra il nome di una farfalla. Invece, visto che prima fuori onda mi diceva che tu hai una formazione chimica, giusto, da ragazza, mi dici che cos'è? Diciamo, in maniera divulgativa, ecco. Oddio, è una molecola, i dettagli tecnici non li saprei. Beh, guarda, già una molecola per me è tanto, eh? È già qualcosa. Ok, che agisce su... Agisce sui neurotrasmettitori e permette di controllare l'umore, diciamo. Però aveva questi effetti di cui parlavi prima, no? Cioè che la mattina ti svegliavi e sembrava di stare in una melassa. Quanto l'hai presa? L'ho presa per poco meno di un anno. Ok, e quando hai cominciato a vedere che funzionava? Anzi, scusami, no. In che modo funzionava? Cioè, che cosa ha cominciato a cambiare? Grazie anche all'analisi, no? Poi ne parliamo dopo. Però proprio fisicamente, che cosa ha cominciato a cambiare? Quello che cambia è che interrompe tutte le ossessioni che ti impediscono di funzionare, perché letteralmente la depressione è quello. Perché, come dicevi anche tu prima, si pensa che il depresso sia qualcuno che è un po' più triste degli altri. Mm-hmm. In realtà è qualcosa di un po' più complicato e anche tutte le strategie normali che hanno proposto anche gli altri ascoltatori per uscire dai momenti giù non funzionano più, hai proprio bisogno di interrompere qualcosa che ti ha bloccato e la mirtazapina a me da questo punto di vista ha funzionato, cioè ti permette di recuperare quel minimo di lucidità o di serenità o di testa, chiamala come vuoi, che ti permette di reagire. Senti, invece Anna, c'è una, so che è una domanda strana, ma c'è una causa? Nel senso che chi non ha provato questa esperienza o non la sta provando nel momento in cui si trova davanti a una persona che invece ha una forma di depressione reale, cioè non è solo un po' triste, se non capisce, la prima cosa che gli viene da chiedere è ma cosa c'è? Cosa c'è che non va? Cos'è successo? C'è una causa? E a te è successo qualcosa oppure... semplicemente lentamente accade, un giorno ti svegli e ti accorgi che hai perso la voglia di passare, trascorrere le tue giornate. Adesso io parlo per me, però dico certo, per me è stato certo, un insieme certo. di cose che si sono sommate e che fino a un certo punto pensavo di poter controllare, ma a un certo punto mi sono accorta che non ce la facevo più e quindi o mi lasciavo ulteriormente andare o iniziavo a reagire e ho optato per la seconda opzione. C'è una forma di pudore nelle persone che si incontrano nel raccontare di avere questa patologia, giusto? È di fatto una malattia la depressione? Sì, io la considero così, poi ovviamente ci saranno pareri diversi, però sì, c'è una forma di pudore, perché comunque, almeno per quanto mi riguarda, il fatto di ammetterlo con gli altri è come dire non ce l'ho fatta come tutti a scuotermi, no? E mm-hmm. quindi ho avuto bisogno di aiuto. E per alcuni questo implica anche un giudizio, mi è capitato di sentirlo, come dire, vabbè, ma insomma, che cos'hai, dati da fare, smuoviti, perché ti lasci andare, no? È un po' difficile da capire, anch'io pensavo prima di passarci in mezzo che bastasse essere, insomma, quel tanto forti da scuotersi per uscirne, in realtà è un po' più complicato di così. Però allora è vero che c'è una forma di giudizio in moltissimi interlocutori, no? Come dire che una persona depressa è una persona che non è abbastanza forte, giusto? Non ha abbastanza carattere. Che è fragile, che è viziata, insomma. Io non mi sono mai vista così, però posso capire che qualcuno possa vederla in questa maniera, però non è piacevole, insomma, sentirsi giudicati per questo. Come stai adesso, Anna? Ma direi abbastanza bene. Mi piace. Era una stagione antidepressiva per definizione, no? Da qua, diciamo, quando ti sei accorta che eri guarita? Ma come ho scritto nel racconto, la cosa che non c'è quando sei depresso è non veder l'ora di qualcosa. Se ci pensiamo nell'arco di una giornata, tante volte abbiamo il pensiero, oh, adesso finisco questo e poi faccio certo. questo che non vedo l'ora di. La prima volta che ho risentito quella sensazione ho capito che stavo uscendo. La speranza per un futuro prossimo. Ti ringrazio moltissimo Anna, davvero, perché come dicevo all'inizio non è facile trovare qualcuno che ha voglia di mettersi lì e raccontare con serenità e con semplicità una storia di questo tipo. Grazie ancora. Grazie a voi per avermi dato voce. Ciao, ciao. Buona giornata, grazie mille. Anche a voi, ciao. siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Sta passeggiando di spalle, Anna. Si trova su una passatoia in mezzo a delle piante. È una foto quella che vi sto raccontando, della foto che chiedo di mandare tutti i giorni ai protagonisti delle storie e agli autori delle storie che vi racconto in onda. Le potete vedere tutte le foto sul sito di Radio 24, alla nostra pagina Voi Siete Qui, dove trovate anche pezzi del racconto, dove trovate i podcast, dove trovate le canzoni che mandiamo in onda. In questa foto qui in particolare Anna si trova in un luogo che a me sembra quasi la High Line di New York, che è questa linea sopraelevata che era una vecchia ferrovia, adesso è una passeggiata, però potrei dire una boiata. È capace che stia dicendo una boiata, ma comunque sta camminando di fronte a sé. La foto l'ha scattata alle sue spalle, ha addosso un cappotto e il cielo è molto grigio, è quasi autunnale, ma a giudicare dal cielo di questi giorni potrebbe anche essere primaverile. Depressione, sostantivo femminile. Abbassamento durevole di livello. In geografia, area più o meno estesa della superficie terrestre che si trovi a un livello inferiore a quello medio della regione che la circonda. In meteorologia, depressione atmosferica o depressione barometrica, zona di bassa pressione atmosferica. La fase discendente del ciclo economico, susseguente alla crisi, è caratterizzata da ristagno negli affari, discesa dei prezzi, liquidazioni, fallimenti, disoccupazione. In psichiatria, deviazione del tono dell'umore in senso malinconico, per cui si ha avvilimento, difficoltà di pensiero e di concentrazione, rallentamento psicomotorio oppure agitazione, senza però che si giunga a una vera e propria forma patologica. Etimo, dal latino, derivato di depressus, participio passato di deprimere. Data, secolo XVII. Noi abbiamo deciso che oggi usavamo nel modo più blando questo termine, no? Il termine depressione, pur partendo da un racconto invece che era molto denso e che raccontava come la depressione sia una patologia, lo faceva Anna appunto nella sua storia, però abbiamo deciso di tenere largo questo termine che in maniera colloquiale viene utilizzato dicendo sono depresso, per dire in realtà sono un po' triste, forse sono stanco o sono stressato. E quindi alla domanda che cosa fate per non deprimervi, le risposte, come vi dicevo prima, sono più o meno, hanno a che fare con l'arte, con la musica, col guardare, quindi col fruire del bello in assoluto, poi hanno a che fare con lo stancare il fisico, cioè con andare a correre, ballare, qualcuno dice a ballo tango, col cibo, col mangiare. A proposito dell'arte, musica la si può sia ascoltare sia metterla in pratica. Maria scrive: canto, devo dire che cantare funziona sempre, è un metodo. Addirittura leggevo che sui manuali di sopravvivenza che si trovano all'interno delle scialuppe di salvataggio, non sono mai stato su una scialuppa di salvataggio, però mi pare di aver letto che in questi manuali ci siano consigliate, oltre a raccontare storie, cantare per passare il tempo e per evitare di intristirsi, per cui quello è un metodo. A proposito di bellezza e di arte, Gerardo scrive: guardo i video di Zidane. Questa è una cosa che si può, la bellezza del gesto. Mi ricordo un film, c'era un film che si chiama Ritratto del XX secolo, Zidane, Ritratto del XX secolo, ed è ripreso in una partita del Real Madrid quando giocava là, in cui un sacco di telecamere lo inquadravano solo Zidane per 90 minuti, ed è un film in cui tu non vedi la partita ma vedi Zidane che si muove. Questa cosa accadeva prima dei mondiali, dei famosi mondiali del 2006, forse era 2004-2005, e la cosa allucinante è che in quella partita Zidane veniva espulso. Che è strano se ci pensi. Sai che c'hai un sacco di telecamere addosso e vabbè, però comunque il film è bellissimo e lui lo era ancora di più. I due messaggi vicini che fanno ridere: Céline scrive: per non deprimermi faccio l'amore con l'uomo della mia vita, e Mary subito dopo: parlo con mio marito e mi ritorna il buon umore. Faccio così da 30 anni. 349-238-6666. Visto che parlavamo di un argomento come questo, no? che è la depressione, abbiamo trovato Tiziano me l'ha suggerito, un testo che si chiama Il male oscuro di Giuseppe Berto, che è un romanzo ma in realtà è un'autobiografia. Giuseppe Berto era uno scrittore, uno sceneggiatore che a un certo punto, dopo una serie di cose che gli vanno storte, si trova in un momento buio della sua vita. Il suo psicanalista gli consiglia di scrivere, di tenere un diario, e ne esce questa sorta di stream of consciousness, una roba per cui, come dire, pensieri che escono, un flusso di coscienza. C'è nella parte iniziale di questo libro c'è una descrizione, secondo me anche molto divertente, di che cosa prova il tizio che entra dallo psicanalista e si sdraia su quel lettino. Fare la psicanalisi è, almeno apparentemente, la cosa più semplice del mondo. Nel senso che la cura consiste nell'andare dallo psicanalista due o tre volte la settimana, o forse anche più, secondo i casi. Nello stendersi sullo speciale lettino o divanetto ideato dal dottor Sigmund Freud per facilitare il rilassamento, nel rilassarsi, appunto, e nel raccontare in assoluta libertà tutto ciò che passa per la testa, ma soprattutto, sempre che sia possibile, i sogni fatti di recente. E la libertà espressiva, che è senz'altro indispensabile, dovrebbe risultare tanto più agevole in quanto che il lettino o divanetto è disposto in modo che il cliente non possa vedere l'analista. E questo giusto per togliergli soggezione o altri sentimenti inibitori, dato che, a parte che si paga, la psicanalisi è un po' come la confessione. Ossia, non servirebbe a nulla se uno non andasse a raccontarvi la verità. E siccome la verità la si dice meglio a se stessi che non agli altri, ecco che il prete si nasconde dietro la grata e l'analista alle spalle del paziente, per rendere tutto più semplice, sebbene qualche volta il paziente si distragga a congetturare cosa faccia l'analista, mentre lui, rivolto da un'altra parte, si rilassa e racconta. E per ciò che mi riguarda, io penso che, a giudicare almeno dai rumori, il mio analista giocava con le chiavi dei cassetti della scrivania e spesso trovava difficoltà ad accendersi il sigaro con l'accendino, sicché era costretto a manovrare la macchinetta anche 5-6 volte prima di accendersi il sigaro o prima di rinunciare ad accenderselo. Il dottor Freud è stato senza dubbio un grande uomo in qualità di inventore della psicanalisi, tanto che molti non esitano a collocarlo alla pari con Gesù Cristo o Carlo Marx, tra i pochi geni che hanno dischiuso nuove porte all'umanità. E io, naturalmente, non ho nulla da obiettare a questo proposito, però con quel suo lettino o divanetto rilassatorio non l'ha, a mio avviso, imbroccata giusta. You're not alone! Pubblicato nel 1964, questo romanzo di cui vi ho letto una parte, che si intitola Il male oscuro di Giuseppe Berto, all'inizio fu rifiutato da diversi editori e poi nel 64, in un'unica settimana, vinse due premi, il Viareggio e il Campiello, così, tanto per dire. 349-238-6666, chiudiamo con alcuni messaggi che parlano proprio dell'argomento di oggi, perché Maurizio da Roma scrive che, per non deprimermi, io, invece di immaginare di vincere una grande somma o chissà cosa, io progetto non ozi e vacanze o belle macchine, ma di sviluppare un'azienda come nei miei sogni, progettando tutto, dall'ufficio al reclutamento del miglior personale sulla piazza, e fare e costruire e sviluppare. Sì, lo so, sono un po' strano. L'ultimo messaggio che voglio leggervi per oggi è un messaggio che non è firmato, che dice: grazie per avermi fatto sentire un'Anna che ce l'ha fatta, ne ho davvero bisogno. Da 6 anni la mia vita è scomparsa, ma provo a non arrendermi. Fatemi sapere che posso farcela a desiderare di nuovo. Guarda, non so se ce l'abbiamo fatta, credo che però Anna un modo te l'abbia raccontato. Io ringrazio soprattutto lei, ringrazio però anche Filippo Aureggi, che è stato al mixer, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di lei, era la storia di Anna, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Alessandro da Ravenna, la storia di domani è la mia e parla di una camminata fatta in montagna a 20 anni. Questa è la mia storia e io sono qui.